Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Per fare un branco ci vuole un lupo. Buongiorno a tutti. Salve, da me Andrea e da Morena. Non so se magari così per ricordarvi giusto chi siamo. Almeno ogni volta vi ricordiamo sempre. Una puntata degli alcolisti anonimi, cioè, sono Morena. Sì, ciao, sono Andrea, sono in un branco da 6 mesi, no, di più, molto di più, quindi insomma, vabbè. Detto questo... Ah, oggi... interessante, solo 6 mesi ti senti parte del branco? No, da 6 mesi che, no, un po' meno in realtà, che abbiamo deciso di creare, ricreare il nostro branco, da soli. Visto? Ho sentito gli unghie però... sui vetri proprio scivolare. Comunque, però diciamo bene, che no? È stato fatto bene, diciamo, come salvataggio. Detto questo, oggi parliamo di un aspetto sempre, come dicevamo, legato al branco. Quindi abbiamo parlato del branco in generale, abbiamo parlato delle figure in generale e stavamo analizzando figura per figura. Dai, che oggi è una giornata che ti piace, su. Oggi è una giornata che mi piace. L'altra volta abbiamo parlato degli alfa e oggi parliamo... dei beta. Ecco, non so se ho tanto interesse a parlarne io, più che altro perché sennò poi qui sei di parte. No, tranquillo, qui... ti smonto io. No, ma per cortesia. E tutta una cosa di questo tipo, per cui insomma c'è da parlarne un pochino, quindi non so se parlarne io direttamente o farne parlare magari da più da Morena, che in qualche modo così almeno non dice che io sono di parte, che il beta è quello che mi piace di più, che mi sta più simpatico. Detto questo, allora, chi è il beta? Il beta è il... mi sta venendo il beta è il protettore, ma potrebbe suonare più. Sì, no, esatto. Sì, infatti. Il beta comunque è colui che protegge il branco. Sì. Tendenzialmente nel branco di lupi è quello più forte, più muscoloso. È quello che ed è l'unico che può ambire appunto al posto degli alfa. Se non un beta, se non ben equilibrato, può andare a mordicchiare un pochettino l'alfa. Andrea, se la smetti di litigare con Doom nel frattempo... Sì, stavo litigando un attimino con Doom che sta deciso di fare... Beh, giustamente stiamo parlando del beta. Infatti, arrivato, come potevano venire a rompere le scatole Doom, voglio dire, no? O sbaglio? Si è manifestato, infatti. Appena detto il beta è arrivato. Esatto. Tra l'altro nel frattempo continuiamo noi a essere un po' marci per l'influenza. Nel frattempo non so se... Parla per te. Da tanto sta arrivando, pure a te, quindi dire, non ne scanserai da questa cosa. Sì, il beta quindi è colui che protegge, quello più grosso, quello più forte e che protegge principalmente gli alfa. E può essere comunque, come dicevo prima, anche una minaccia per gli alfa. Può essere una minaccia, può essere... Allora, diciamo che anche in questo caso un beta che sta all'interno di un branco, che sta bene all'interno di un branco, che vive nel suo ruolo, che manifesta la sua autorità e autorevolezza, che vive in armonia, tendenzialmente sì, è un ottimo guardiano, è un ottimo, soprattutto un ottimo guerriero, chiamiamolo così. Infatti il beta lo chiamiamo anche il guerriero, ed è importante perché protegge gli alfa, quindi sicuramente la coppia alfa, la coppia determinante per il branco, ma in realtà protegge anche tutto il resto del branco, perché è colui che si mette in mezzo e difende fisicamente proprio tutto il resto del branco. Chiaro è che un beta invece in una figura non equilibrata, in un branco che non sta bene, in cui ci sono dissidi all'interno del branco stesso, in cui ci sono degli altri ruoli che fanno i furbi, tra virgolette, che cercano di assumersi il ruolo beta, è ovvio che diciamo che il beta, proprio perché il suo spirito guerriero è piuttosto forte, non ci pensa uno o due a, come dire, ringhiare o mordere direttamente, ecco. Questo... il risosetto della situazione. Sicuramente il risoso della situazione, questo è poco ma sicuro. Guardando Doom si viene anche il bulletto della situazione. Sì, il tamarro, quello con la catenazza e il pelazzo di fuori, robe di questo tipo. Sì, lo so, non è molto... A me piace più vederlo come un guerriero con l'armatura, no? Un pochino più, giusto? Sì, invece io lo vedo più tipo con gli occhielli da sole sulla decapotabile, con la zampetta appoggiata alla portiera, ecco. Vabbè, ma giusto perché sapevi che io quando andavo in America giravo sempre con la decapotabile. Ah no, ma ogni riferimento sì, è puramente casuale. Detto questo, a parte, scherzi a parte, no, il beta è una figura chiaramente estremamente importante, e la figura sì del guerriero. Attenzione però a questo tipo di definizione, in quanto spesso, anzi praticamente sempre, abbiamo riscontrato che i maschietti, cioè gli esseri umani di sesso maschile, tutti cercano di identificarsi qua, o meglio, quasi tutti cercano di identificarsi proprio con la figura del guerriero, perché nella nostra società il guerriero è visto come una figura potente, una figura che difende, una figura che qui, una figura che là. Ed è il guerriero. Ed è il guerriero. Maschio. Ah sì, beh, certo. E puntualmente accade che praticamente in quello che abbiamo incontrato, e ne abbiamo incontrate tante di persone, ma avessimo trovato un maschietto veramente beta. Tendenzialmente sono poi figure che se la fanno tutto alla prima difficoltà, non sono per niente protettrici e semplicemente sono semplicemente arroganti e boriose e, come dire, un pochino anche... viene bene la parola, comunque cercano di scimmiottare, cosa che in realtà non sono, perché gli è stato insegnato che è giusto fare così. Cosa significa? Essere beta non ha né più valore né meno valore di altri ruoli, semplicemente è un ruolo estremamente importante all'interno del branco, come ce ne sono tanti, ovvio, ma il beta ha proprio un'attività specifica, quindi gli piace combattere, gli piace scendere in guerra, non si deprime assolutamente se in quell'atteggiamento di guerra, diciamo, qualcuno viene ferito, anzi, se ha agito come guerriero, balla sul cadavere. Balla sul cadavere, inteso, sa perfettamente che ha attivato un certo tipo di energia, doveva attivarla per quel tipo di motivo, e quello che rimane sul campo è semplicemente una, come dire, un risultato ovviamente di quello che è avvenuto in precedenza, e quindi va benissimo in questo modo e finisce lì. Ovviamente quello che ci insegna la nostra cultura, se voi ricordate bene anche tutte le panzane che ci raccontano sul branco di lupi, che il branco di lupi è gestito dall'alfa, che è un maschio, che è il dominante, anzi, sentite questa parola, concedetemi, che è una stronzata senza senso, dominante sempre e sottomesso. Sì, perché sono cose che sento ormai a livello cinofilo da non so quanto tempo, in bocca a un sacco di cinofili, in bocca a un sacco di proprietari che non sanno neanche quello che stanno dicendo, e parlano di dominanza e sottomissione. Cinofili o cagnari? Cagnari, ovviamente. Ah. Dominanza e sottomissione. Dominanza e sottomissione. Dominanza e sottomissione. Io sono dominante e tu invece sei sottomesso. Una cosa che ad oggi, nel 2016, credo che dovrebbe essere finalmente quasi tolta dal vocabolario come parola, da legare soprattutto a un ambito cinofilo. Quindi se, non so, quando magari qualcuno di voi è un cagnetto, va all'area cani e vede magari che uno di questi cani, magari un maschietto, tendenzialmente cerca di montare tutti gli altri cani. No, quello è l'atteggiamento di monta, si chiama. Beh, dominante. Perché è dominante! Non è vero che è dominante, semplicemente o ha degli atteggiamenti completamente squilibrati, o cerca di fare il bullo di turno, quindi non è dominante, è semplicemente uno che tenta di fare il bullo, oppure è estremamente insicuro perché ha degli atteggiamenti di monta per farsi vedere dal proprietario, come dice: guarda papà, guarda quanto sono bello, guarda quanto sono forte nei confronti di tutti gli altri. Quindi assolutamente non è assolutamente vero, e sarebbe il caso veramente di togliere questi due aggettivi che sono proprio dominante e sottomesso. Detto questo, quindi in realtà il beta non è né dominante né sottomesso, anche se è quello che vogliono farci passare, come dicevo, il maschio alfa, il prepotente di turno, quello più grosso e più forte, che comanda gli altri. Nulla di più falso, ovviamente. Il beta è colui che ha questa enorme responsabilità, che è proprio quella della difesa del branco, della difesa degli alfa soprattutto. Quindi sì, il beta è una figura che ha bisogno di avere estremo equilibrio, perché nel momento che non ha equilibrio sono guai. E a fianco del beta? A fianco del beta che? Che tipo di energie? Ma tutte, come nel branco, sono necessarie tutte. Sicuramente un buon omega può avere degli ottimi ritorni, degli ottimi feedback da parte del beta, perché ovviamente l'omega, come poi parleremo in futuro, è colui o colei che dà veramente l'equilibrio all'interno del branco, senza il quale sarebbe semplicemente un ammasso di risse, di guai e di morsi. E di... Se è un branco solo di beta, non sarebbe beta, sono guai. All'interno del nostro branco, come avete potuto percepire dall'inizio della chiacchierata, sì, io faccio parte del della coppia alfa con Morena, allo stesso tempo una mia energia predominante è proprio l'energia beta, probabilmente dal mio passato, no? in polizia, quindi dopo 10 anni di servizio della Polizia di Stato, in cui ho fatto sempre attività operative, quindi non sono mai stato a consegnare del materiale o del vestiario, ma lavoravo in strada, quindi lavori ovviamente a stretto contatto con tutto quello che potete ben immaginare. E mi piaceva, cioè, sono sincero, era un'attività che mi piaceva. Quando arrestavo qualcuno che andava arrestato ero molto contento, se in una colluttazione, che purtroppo capita, è inutile nascondere la testa sotto la sabbia, con una persona che aveva commesso un reato, ne uscivo io vincitore, ma ero molto contento, non mi dispiaceva assolutamente del fatto, ma poverino, più contento rispetto a che se non fossi uscito da vincitore, probabilmente sì. ma ero assolutamente contento. Se tu che mi stai ascoltando mi dovessi dire, ma se qualcuno dovesse minacciare la tua famiglia o dovesse far male alla tua famiglia, tu che faresti? Ma io, la mia risposta da animale è molto diretta: lo ucciderei seduta stante, proprio le terminerei la vita, perché... Ma questo da animale? Da animale, da essere umano, non lo faccio semplicemente perché so che non è corretto terminare la vita di qualcun altro, e soprattutto finire in carcere, perché se qualcuno minaccia pesantemente o fa del male pesantemente alla mia famiglia, il mio unico rimorso è il fatto che io vada in carcere. Per il resto assolutamente non ho nessun tipo di rimorso. Questo ti fa capire, nonostante io sia una persona equilibrata in questo, quindi non ammazzo nessuno, non faccio del male a nessuno senza giustificato motivo, in 10 anni di polizia ho sempre fatto quello che andava fatto nel migliore dei modi, difendendo quelle che erano le leggi, quelle che pensavo fossero le leggi corrette, ovviamente il cittadino, eccetera eccetera. Quindi c'è una frase molto importante, che è sempre un mantra che mi ripeto sempre, che dice proprio: un guerriero senza pratica spirituale è soltanto un assassino. Questo è assolutamente vero. Un guerriero che non ha in sé la pratica spirituale, quindi non ha un equilibrio suo interno, non è lucido e freddo in determinate situazioni, sì, è soltanto un assassino, cioè una persona che si diverte a fare del male. Per farne male può essere in tanti atteggiamenti, quindi ricordatevi che l'atteggiamento meta non è solo un atteggiamento fisico, è un atteggiamento anche verbale, un atteggiamento posturale, è un atteggiamento, se vogliamo, anche più spirituale, tra virgolette, no? Quindi il fatto di essere, appunto, come dicevo, questa figura da guerriero. Ora, come dicevamo prima, quanti ne abbiamo incontrati di guerrieri? Maschi? Zero. Purtroppo, ma nel senso, sono contento per la parte femminile, purtroppo, perché vedo che ad oggi, con cui abbiamo lavorato, di uomini col carattere di un beta, non ne abbiamo trovati ad oggi, spero un giorno di trovarne. Praticamente tutti hanno scimmiottato questo tipo di energia, tutti hanno pensato di essere questo tipo di ruolo, in realtà hanno dimostrato che nessuno in realtà fosse questo tipo di ruolo. E devo dire, invece, molte più donne hanno dimostrato di possedere questo tipo di energia. Eh sì, diciamo che spesso anche le donne tendono a scimmiottare questo tipo di energia, questo perché comunque anche da un retaggio culturale, da un'errata concezione di emancipazione probabilmente, spesso e volentieri le donne credono di dover dimostrare di essere guerriere, quando in realtà magari hanno un'indole totalmente differente. Hanno un'energia totalmente differente che, mettendo a frutto quella che è la loro vera energia, magari con la diplomazia, magari con la dolcezza, riescono ad ottenere molto di più perché vivrebbero più nel loro. Nonostante questo, alcune donne che manifestino un'energia beta ci sono, e ci sono e come. Sì, sì, assolutamente sì, ce ne sono, ne abbiamo trovate e devo dire, la manifestavano anche. Come facciamo noi a comprendere? Ricordatevi, noi effettuiamo solitamente un test iniziale che viene chiamato test Wolfpack, in cui sono una batteria di circa 40 domande in cui a risposta multipla, in cui vengono fuori tendenzialmente le energie principali della persona. Per energia intendo appunto alfa, beta, delta, gamma, omega. Quindi in qualche modo al test, ovviamente, se una persona ha una buona consapevolezza, quindi sa anche di quello che stiamo parlando, magari lo fai proprio te che stai ascoltando questi audio, quindi arriverai al termine di questi dei ruoli e dici ok, più o meno ho compreso quelli che sono i diversi ruoli. A quel punto effettui il test, potrebbe essere che questo test sia sporcato, tra virgolette sporcato ovviamente, dalle informazioni che ti abbiamo dato. Allo stesso tempo, ovviamente per questo serve un intervento diretto, che sono appunto i 3 giorni di PEC System, oppure un intervento ancora più semplice per quello che riguarda ruolo, in cui semplicemente ti metto al cospetto di Doom. Doom, come già contavamo, è il nostro pastore belga Malinois, e lui è la figura beta all'interno del branco. L'Ercolino Pestamusi. Esatto. Come sapete lui, o forse non lo sapete, quindi ve lo dico adesso, è un cane da attacco difesa, quindi fa tutta una serie di attività, abbiamo fatto diversi anche lavori alle Nazioni Unite, insomma abbiamo fatto tutta una serie di attività, quindi lui è la figura preposta proprio a selezionare, a verificare se chi abbiamo di fronte innanzitutto una minaccia, può essere un alfa o altri ruoli, ma sicuramente per capire se abbiamo di fronte un beta o abbiamo di fronte una figura che tenta o scimmiotta di essere beta. Quello che succede quindi nel momento che sei beta, fai un'attività con Doom. Non ti diremo qual è l'attività specifica, quindi fai un'attività con Doom. Nel momento che fai l'attività con Doom, molto spesso quello che è successo è che Doom stesso a un certo punto si gira e mi guarda, come dire, ma sei proprio sicuro che devo fare l'attività con lui? Perché ovviamente attraverso le sue posture, le sue quindi comunicazioni posturali, visive, eccetera, mi dimostra che di fronte abbiamo tutta un'altra figura che non è il beta. Ovviamente difficile consapevolizzare, ma di fronte a un cane e di fronte alla reazione di un cane che invece è un beta puro, le persone solitamente riescono a consapevolizzare meglio quello che avviene. Quando si gira ti guarda con la faccia, papà, ma sei sicuro? Esatto, esatto. Proprio davvero? Esatto. È già successo diverse volte, insomma, e la persona poi dovrebbe consapevolizzare. Ovvio che meglio consapevolizzare in questi 3 giorni di PEC System, perché e poi continuare la formazione, perché solitamente quello che avviene è che lo consapevolizzi e poi rientri nella tua vita ordinaria e perdi di nuovo la consapevolezza di quello che è il tuo ruolo animale. Certo è che se non hai un'energia beta, o non hai un'energia alfa, non hai un'energia gamma, delta, omega, eccetera, puoi rinforzarla attraverso un certo tipo di attività, ovviamente. Non sarà mai la tua principale, quindi prima abbiamo parlato di me del beta, Morena non è un beta, no? No, non è questa vita. Esatto. Quindi per quanto lei cerchi di rinforzare questa figura, quindi dici ok, adesso faccio un certo tipo di attività per aumentare un po' questo tipo di energia, ho provato anche a fare un po' di box con te. Esatto. Può farlo. Questo ghigno, scusate. No, ho fatto un po' di ridere. Scusate un attimo di diatriba familiare, questo ghigno. No, mi ricordo che facevi box e bravi Amtaro, quindi sai chi è Amtaro? Sì. Il discorso che io facessi dei saltini sul posto è un'errata concezione data dai vari Rocky, quindi mi saltella. Saltella perché ha alto 1,10 m Stallone, quindi è ovvio che dovrà saltellare. Vabbè, io già solo per arrivare al sacco più o meno. Ma no, le stesse difficoltà. No, lei aveva la sindrome di Amtaro. Amtaro, come sapete, è il cricettino, quello dei cartoni animati. Diciamo che non ha mai fatto poco, almeno non credo, non sono mai stato un assiduo, diciamo, fruitore di Amtaro, però mi sembra che non abbia mai fatto box, non sarebbe stato forse in linea con un genere di audience. Intanto comunque distraevo, perché il mio era l'effetto ipnotico, quello che cercavo era l'effetto ipnotico, e distraevo l'avversario. Il sacco l'ho visto proprio totalmente distratto. Sì, vero? Sì. Sì, immagino. Quindi levati quel ghigno quando parli delle no, mi pare, vabbè, non riesco, è proprio come si dice, istintivo naturale. Però comunque sia, quindi può aumentare un pochino l'energia beta, ovviamente non sarà mai un beta, quindi è inutile cercare di posizionarlo in quel determinato spazio. Ma non ci tengo, non peraltro, perché essendo la mia un altro tipo di energia, io sto bene nel mio. Se dovessi cercare di scimmiottare, o comunque volessi comunque rinforzare la mia energia beta, potrei rinforzarla, ma comunque ci sarebbe un fondamento di disagio in me, perché comunque certo, non, certo. È, non è la mia preponderante, cioè certo. Io discendere e ringhiare. Cosa succede? Questo ovviamente all'interno di una famiglia è estremamente importante avere questo tipo di ruolo, ma come parlavamo anche le altre volte in aziende e quant'altro, è in un'azienda estremamente importante come ruolo e va saputo riconoscere, perché oltretutto il beta è colui che è l'unico che può cercare di minacciare la leadership degli alfa. È l'unico, non ci sono altri ruoli, quindi può ringhiare, può cercare di sistemarsi o posizionarsi al posto degli alfa, quindi bisogna fare estremamente attenzione. È sicuramente una, come si dice, una figura di estrema importanza in un'azienda. Supponiamo che come azienda voi abbiate un ufficio legale che si occupa proprio delle attività legali della vostra azienda. Se voi come imprenditori desiderate una politica più aggressiva, per cui la prima persona che ci tocca la denunciamo e la massacriamo, tanto per intendersi, ovviamente all'interno di un ufficio legale non potremo mettere un avvocato omega che cerca di stemperare, di scendere a patti a portare i cioccolatini alle riunioni. Esatto, perché cercheremo di instillargli in un'attività aggressiva e lui si sentirà di merda, concedetemi il francesismo. Nel momento in cui invece abbiamo questo ufficio legale, all'interno mettiamo un avvocato beta, va perfetto, a posto, vuol dire che abbiamo preposto la persona idonea a fare quel tipo di attività, che è proprio quella che avremmo dovuto scegliere. Contrariamente, in un luogo, in un posto dove è previsto un'energia più diplomatica, se mettete un beta farà un casino che neanche immaginate. Infatti mi collego perfettamente a quello che dici, perché come gli alfa anche i beta hanno i loro pregi e i loro difetti. Ta-da! I loro pregi sono evidenti, nel senso instillano sicurezza, sono degli ottimi protettori in questo caso. Sapete, i protettori in un altro senso, i protettori nel senso che proteggono, e sono delle figure che se equilibrate hanno il sangue freddo per agire in certe circostanze, in certe situazioni, quindi individui estremamente affidabili e attenti proprio a eventuali pericoli e a difendere su certi pericoli. Il difetto qual è? Il difetto è che se sta all'interno di un branco messo non correttamente, non equilibrato, eccetera, è il rischio che morda all'interno del branco stesso, quindi non trova combattimenti all'esterno. Anche in generale, comunque, se non trova combattimenti all'esterno, il rischio che possa, se non è totalmente in equilibrio il beta, qualche morsicaturina all'interno magari cerca di darla sicuramente. E soprattutto gli alfa stessi, se non sono ben equilibrati e non hanno una buona leadership, saranno ovviamente soggetti a... Il beta li smonta. Sì, li smonta. Vi faccio un esempio proprio di vita personale, come facciamo sempre. Fino a un tempo fa, tanto tempo fa, vivevamo in un altro tipo di branco e due figure all'interno di questo branco, che erano un gamma e un omega, anzi in realtà poi il gamma abbiamo scoperto che era in realtà un lupo spazzino, cioè un lupo spazzino sono quelli fuori branco, pericolosi, che danneggiano il branco, eccetera, che cercavano di scimmiottare un certo tipo di figura, che era proprio la figura beta. E in quel caso io rappresentavo la figura beta e diciamo che sono arrivato a un certo punto in cui gli avrei spaccato la scrivania sulle corna. E non hanno apprezzato. Non hanno apprezzato, hanno avuto timore di questa cosa qua, e il fatto è che poi, vabbè, come è stata gestita questa situazione? Non è stata gestita oggi da Alfa, lo dico in maniera corretta, secondo noi. Allo stesso tempo, quello che è successo proprio questo, è successo che queste due figure hanno fatto qualcosa, hanno determinato qualcosa che non doveva essere fatto, danneggiando il resto del branco e soprattutto cercando di andare a mordere il beta. E se cerchi di andare di scendere in guerra con un guerriero, ma il guerriero scende in guerra e si diverte anche. Cioè dici, ok, va bene, fantastico, finalmente combattiamo sul mio terreno. Con tutta una serie di guai. Quindi ecco, questa è la difficoltà di una buona leadership e di altre figure all'interno del branco, insomma. Come prendere in contropiede un beta? Con la diplomazia. Sì, con la diplomazia, sì, ma a volte la diplomazia fa anche in casa. No, scherzo. Vabbè, allora con un buon pranzo? Ecco, ad esempio questo potrebbe essere sicuramente sì, oppure gli dai un osso da rosicchiare e va bene così. Sì, quando esagera basta lanciargli un osso al beta, si soddisfa. Va bene, detto questo, quindi abbiamo ampiamente parlato del beta, o almeno ampiamente rispetto a non svelare troppo, perché poi ripeto, se ascolti tutti gli audio e vieni a fare l'intervento potresti essere in qualche modo più in difficoltà rispetto a chi magari non ha sentito mai nulla, perché... Scrivere su una lavagna pulita è un'altra cosa. Esatto. Detto questo, quindi noi vi salutiamo, io spero il prossimo appuntamento di essere con una voce e un marciume un po' meno importante. Lo so che fa un po' schifo, però insomma così è, quindi spero di tornare un pochettino più in forma. Con questa bella immagine di Andrea e con i cuccioli in sottofondo che crescono benissimo, sono dei tati bellissimi. Sì, ormai hanno iniziato ad aprire anche gli occhi, quindi... Sì, Bronson ha iniziato ad aprire gli occhi, comunque. Tra un po' inizieranno a correre all'interno del recintino qua che abbiamo, a picchiarsi, a mordersi, eccetera. No, l'importante è che non escano dal recintino, immagino già tirar fuori dall'armadio vestito con un cane appiccicato sotto e cerca molto di morderlo, visto che per metà sono malinois, quindi... Infatti. Va bene. Detto questo, vi salutiamo e vi auguriamo una fantastica giornata e ci sentiamo al prossimo incontro. Esatto. Buona giornata a tutti. Ciao. E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao.